Intanto è proprio stata una scelta di Salvini, perché non è stato invitato da Israele, ma lui ha deciso di farsi invitare, ovviamente con la felicità di Netanyahu e dei rappresentanti del governo israeliano, ma non da tutti gli israeliani. Haaretz, per esempio, che è un giornale molto importante israeliano, ha pubblicato diversi articoli dicendo che questa è la destra europea che arriva e che sicuramente non fa il bene di Israele avere questo tipo di amici. Ma anche poi, quando Salvini è arrivato allo Yad Vashem, di fronte allo Yad Vashem c'era un gruppo di israeliani guidati da Dov Kenin, che è un parlamentare israeliano del partito di Hadash, che diceva non usare lo Yad Vashem, sei amico di Mussolini, hai usato anche la frase molti nemici molto onore, non stare qui. Quindi la scelta è stata ovviamente ovvia per Salvini, quella di mostrarsi amico e ammiratore, perché così è stato in effetti, ammiratore di un tiranno come Netanyahu e soprattutto di una persona che continua imperterrita a violare insieme al suo governo qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite e viola impunemente i diritti umani dei palestinesi, ma in realtà anche ormai all'interno di Israele è finita la festa della democrazia, perché le leggi che ha varato in questi ultimi tempi sono molto negative rispetto proprio anche alla multiculturalità degli israeliani stessi. Infatti, tra le dichiarazioni di Matteo Salvini c'è stata la dichiarazione del suo impegno per sostenere il diritto alla sicurezza di Israele, che ha definito baluardo della democrazia in Medio Oriente. Allora volevo chiederti una valutazione di questa definizione di Israele. Ma non è assolutamente un baluardo della democrazia. Israele occupa militarmente un altro popolo, colonizza il territorio e soprattutto ha fatto questa ultima legge, criticata anche all'interno di Israele stesso, in cui lo Stato di Israele è uno Stato ebraico. Ma le dichiarazioni pericolosissime, veramente, che mostra l'incompetenza e la tracotanza, e quanto sia gradasso Salvini, è stato quando lui ha dichiarato che gli Hezbollah sono un gruppo terrorista, dimenticandosi che Hezbollah sta nel governo libanese, che Hezbollah ha combattuto l'ISIS in diversi luoghi e ha combattuto quindi il fondamentalismo islamico. E poi soprattutto quando appunto annuncia una politica estera del governo italiano che non è mai stata decisa e che rovescia comunque quella che è stata la politica estera del governo italiano fino adesso rispetto ad Israele. Finora il governo italiano, pur non essendo all'avanguardia, diciamo, però si è sempre attenuto alle scelte anche fatte dall'Unione Europea, che condividono la formazione di due popoli, due stati, per quanto ormai questa cosa non sarà più possibile, e però continuamente appoggiano anche le risoluzioni delle Nazioni Unite, quindi criticano e denunciano le politiche israeliane verso i palestinesi, ma anche all'interno. C'è un'alleanza, ovviamente, un'amicizia ormai tra Netanyahu e Salvini, perché anche Netanyahu è contro la politica dell'immigrazione, anzi ha omaggiato Salvini per la sua fermezza nel trattare la questione dei profughi e degli immigrati, e viceversa l'ha fatto Salvini. Quindi siamo veramente in una situazione in cui abbiamo un governo con un ministro degli interni gradasso e incompetente, però forse passa, perché sembra che in questi tempi essere gradassi paghi. Siccome parlavi di incompetenza, cioè se secondo te quella di Salvini è alla fine incompetenza e inconsapevolezza di quali siano le relazioni internazionali e anche la situazione israeliana? No, penso che sia arroganza, però incompetenza per esempio rispetto all'UNIFIL, che anche la ministra italiana gli ha ricordato. Al confine con il Libano c'è l'UNIFIL, ci sono gli italiani che stanno monitorando la situazione appunto tra Israele e il Libano, quindi in questo senso sì, l'incompetenza, ma più che l'incompetenza è questo grado di tracotanza di questo ministro, che veramente è allucinante, eppure sembra che lo stiano ad ascoltare.